Incominciamo. Ciao ragazzi, ciao. Noi siamo DFD. I am Diego. Dovevo farmi la doccia ma puzzo da schifo. I am Frego. Cacca nello spazio. I am Danny. Ma trovati un lavoro, cazzo. Musica. Information. Perepe qua perepe. 360. L'informazione divertita. Oh yeah. Quello dove lui è hip. Ecco, e mi ha regalato pure quello del dei Blaster Cult. Madonna mia, sputate, scusate. Brontosaurus Cult, là, come si chiamano? Pronto, welcome, Dutch Gather, Giuri Quani. Siamo bentornati a un benvenuti e Private Marquise di Strag Rodriga. Ok. Yes, I understand all of you at the Monagarine, ok? Ciao bella gente, benvenuti, questa è Radio Sandonai, noi siamo il DFD Team e questa bellissima, stupendiosissima trasmissione è 360, l'informazione divertita. Mi consenta, andiamo avanti. Prego, lei cosa ha da dire? Beh, guarda, è stata una settimana quanto abbastanza triste per me, perché ho dovuto rimanere sotto le coperte e che non sono riuscito a operare, a dare un contributo prezioso alla comunità. Non è possibile, perché ogni volta che faccio la trasmissione io la RAI mi deve bloccare e invece a Berlusconi non lo blocca mai nessuno quando vado alle puttane. Capra! capra. Porco maiale, fascista capra sei. Insomma, no, dai, ricordiamo subito al pubblico, ai radioascoltatori, che stasera abbiamo anche una grandissima novità. Sono venuto a trovarci un grandissimo gruppo che è una sorpresa e lo sveleremo dopo. Nonché una soppressa, una bella soppressa, ci facciamo i panini e ce li mangiamo tutti, capito? Ho capito. Bene. Allora? Diciamo tu incominci, parli e poi vuoi dare la parola agli altri senza sapere quello che devi fare tu. No, io finito. Tu devi dare i contatti. Non so, non tu sei qui, sei ristorante qui e devi dare i contatti. Se non avessimo Frego alla regia, ragazzi. Saluto a Frego alla regia. Sì, ciao, ciao Frego, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, ecco, grazie, ciao. Ecco. Arrivederci a tutti, ciao. Allora, ricordiamo ai nostri gentilissimi ascoltatori che questa Radio San Donà, la frequenza è 102.200. Il numero di telefono è 0421 560993 e 4 finali per il fax e spero di non sputare ancora. Ci potete ascoltare in web radio su www.radiosandonawithoutaccent.it e naturalmente ringraziamo soprattutto per i nostri amici a casa che ci ascoltano ogni settimana e ci ringraziano qui anche su Facebook. Diego, se vuoi dare i tuoi contatti. Ma anche perché benvenuti ad Anno Zero. E quindi dunque Prego, vai pure, non c'è problema. Per gli sms 348-4162771, Facebook DFD Team 360 le parole, e per le email dfd360@yahoo.it. E incominciamo subito le danze con Ivan Canto. Vaffanculo Diego, ciao. Bellissima la canzone di Ivan Canto. Bellissima. Bella, no, bello perché la parola più usata di questa di questo gruppo è no, oppure il dang, oppure il che poi quando tengono le note lunghe, no, sai, nelle dinamiche del discorso musicale tengono delle note lunghe, no, che sembrano dei mega rutti, no? Tanto auguriamo a tutti quanti buon appetito a casa per le persone che stanno mangiando, buon appetito, sì, soprattutto la topi, esatto, ranocchi e ragni coi bignè. Vabbè, era la sigla di Carletto, il principe dei mostri. Voi non siete stati bambini. Non siete stati bambini, vergognati. Ci sono anche persone qui in radio che ci vedono per la prima volta, chissà cosa pensano. Comunque non importa. Frego, ho un'ultima dall'Ansa indirizzata a Frego, sì. Dall'Anca. Stefano, ti amo. ma non ti voglio nella mia nuova casa. Questa ma, è una notizia. Ma scusami un attimo, Stefano quale? Stefano più? Lui o Stefano lui? Vabbè, ah, ci sono due Stefani in radio. C'è una disambiguazione. Dobbiamo fare come Wikipedia, che c'è la pagina di disambiguazione. Comunque, dopo presenteremo anche Stefano lui. Sì, esatto. E quello okay. che lo dice è questa Emma. Voi conoscete una certa Emma? Non lo conosco. Io anni fa ho conosciuto una Emma e boh. Ma aspetta, ma tu hai detto che ci sono. Dimmi, scusa. Facciamo una cosa, intervistiamoli senza presentarli. Ok. Allora, abbiamo detto che c'è uno Stefano qui, no? Cioè, ci sono due Stefano, sì. Due persone che si chiamano Stefano, o uno Stefano sdoppiato. Ma Stefano, cosa ne pensi tu? Ma guarda, non so neanche cosa dire, sinceramente. Però se uno dice così. Un motivo ce l'avrà. Un motivo diciamo, ce l'avrà. Come diceva il grande Marco Ranzani da Cantù. Già, sono pronto. Pronto. Lo ricordate il mitico Marco Ranzani? Comunque, e tu invece, Martino, ha detto il drago? Martino chi ha detto? Ma così l'hai presentato, però, scusa, non devi presentarlo. Hai detto che non lo presenti? Esatto. Vabbè, lo presenti, lo presenti. Il drago. Ok. Il drago. Ivan Drago. Il drago. Ve lo ricordate Ivan Drago, quello di Rocky? Ti spieto in due. Ti spieto. Cosa vuoi fare? Ti mi spieti in due anche tu? Dici ride ma non favella. Siamo divertenti. No, probabilmente drago. Stefano, questa Emma che ti dà questa notizia è qualcuno che non ti vuole a casa, perché sappiamo che animale sei col sesso, quindi non può stare 24 ore su 24. Sei un animale casa, col sesso. A casa di questa dolce figliola e fare sfogare solo Emma. I tuoi bassi bene, istinti. Abbiamo capito, cioè, le donne non vivono solo di questo. Se ti blocco subito, ho avuto finta. Bruttissime esperienze in tempi passati. E quindi sei diventato gay? No. Esatto, ah, bellissimo. Ok, perfetto. No, bene. Comunque al sesso. Esatto, sì, perché dico, sei i tuoi problemi col sesso, al sesso. Sei un animale con il sesso, ho detto. Che fava che sei. Oh, fava, te che dici? Fava, te che dici laggiù in fondo dall'angolino della punizione. Aspettiamo, prova a cominciare a parlare perché ho una voce. Ho una voce in bocca così. Vediamo i picchi. Devi cantare. Parla pure. Dici. Ah, secondo me la Emma, che dopo diremo che è una gran pompinara. Che sboccatello. Che cosa vuol dire il pompino? No, avanti adesso. Diciamo il dizionario sessuologico. Dai, avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti perché stiamo un po' trasgredendo. Stiamo appunto un po' divagando. Che è nostro... allora, voi avete sentito un intervento? Avete sentito l'intervento di tre dei 72 componenti di un, di un gruppo locale, di un grandissimo gruppo locale, e sono i. Sono i Dunkemol, no? Sì. Dunkemol si chiamano, no? Dunque mi chiamate Dunkemol. Così? No, quella è un'altra cosa. Cos'è? No, prova a vedere meglio perché non è quello. Per carità di Dio. Allora, vi chiamate Twilight of Darkness. No, neanche quello. Però Twilight vi chiamate, sì, dai. Twilight è quello del film dei vampiri, che poi è la storia d'amore tra i vampiri. Questi qua sono i persi. Sì, socchiami il sangue. Sono i persi, i Lost. Io bello li... anche Lost, comunque. Diciamo però dopo il film, quello non è un film. Diciamo dopo il nome, ci ascoltiamo un po' di canzonetta qua, perché se no vai con gli amorti. Vai, sei un po' Morpheus anche tu, Diego. Blending to the night. Buonasera, siamo sempre noi Starlight Extinction e abbiamo presentato questo pezzo, Gli Amorphis, con un brano molto valido, orecchiabile, Sampo. Benissimo, bravo, bravo. Sono stato bravo, ok. Allora, incominciamo a fare qualche domandina così, giusto per... A noi, c'è da a fare noi, sì. Cioè, sì, vabbè, a lui. Ah, giusto, sì, perché siete voi. Allora, come vi chiamate? Ci devi presentare. Ci devi presentare. Ci devi presentare. Ok, allora, sì. questa sera abbiamo con... Bello vedere questa come sera... cambia il colorito del sì, viso. Sì, sì. Abbiamo in studio, se si può dire studio, un gruppo locale trevigiano. Uno studio, faccio un'idea. È uno studio, beh, esatto, che si chiama... Lasciamo... No, no, noi non no, siamo trevigiani, non siamo trevigiani. Veneziano, sì, ci tengo sono attese. Sono attese, scusate subito la gara. Applauso al DFD, grazie. Ciao, siamo ciao, DFD, grazie. Ciao. Ciao DFD noi. Va bene, presentiamo il gruppo di questa sera allora. Sì, sì, okay. Che si chiamano? Diego. Stefano e Dennis, io sono Dennis, quello timido. Okay. Io sono Stefano, ma tutti mi chiamano Frego. E lui si chiama Diego e tutti quanti lo chiamano Terrone. Però è così, è la prima volta. Nonché lo c'è. Il protesto delle persone che si possono ricordare facilmente. Sì, sì, sì, sì, sì. Alcuni lo chiamano anche Croce, oppure lo chiamano Muffa, oppure lo chiamano più semplicemente Stronzo. Dennis più comunemente è Mini Me o Tarzanello. Microfono anche. Sì, sì, microfono anche lo chiamo. Sì, sì, comunque sì, siamo il DFD, un gruppo che è nato qui a San Donà, solo io e Dennis, perché sì, scusate, Diego... Scusate, sì. Io volevo aiutare e volevo salutare... Scusate, sono emozionato. Volevo salutare tutti quelli che mi hanno aiutato nei momenti più duri, grazie. Grazie, prego. Anch'io sono molto felice di essere qui e poter ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato nei momenti più duri. Sì, io volevo ringraziare voi perché quando sono duro mi date una mano a non esserlo più. Perfetto. Beh, comunque, volevamo tornare un attimo in quello che eravamo in noi, anche se noi non siamo, e questa sera invece chi c'è è realmente, ed è vero. Questa è pura filosofia, ragazzi, questa è filosofia. Cioè... Esattamente, quindi dalla mia dislessia normale, consuetudinaria e solita, questa sera introdurrò quello che è il gruppo che è venuto a trovarci questa sera, questa giornata. Sì, allora, il gruppo si chiama Starlight... Extinction. Channel Extinction. Come? No, dai, allora siamo serie, per favore, non divulghiamo siamo troppo serie, quello che hai detto, pazza. Esatto. Siamo serie. Comunque Stefano e... l'extension ce li ha, e il Fava l'extension anche, è l'unico sfiga. E lui Martino, vabbè. Io l'extension non vi dico dove se le ho perché sarebbe un po' volgare. Beh, allora chi cazzo siete alla fine voi ragazzi? No, detto così, no, proprio detto così, ma da dove parlate un po' di voi. Sì, parlate un po' di voi raccontandoci noi, vai. Mi raccomando, guarda il microfono. Siamo una band... sta parlando Martino. Sono Martino, sono chitarrista di Starlight Extinction. Guarda il microfono. Fai conto che il microfono sia una bella bionda, tanto giallo. Ciao, bionda. Bionda ti presento. Siamo una metal band delle parti di Treviso, tutte le parti di Treviso. Facciamo trash death melodico. Siamo nati death melodico, sì, cioè questo deficiente. Significa questo è deficiente monnezza melodico. Deficiente sarebbe. Sì. Allora Diego, eccolo là. Deficiente. Dai, scusate l'interruzione, andiamo avanti. Quindi il vostro genere quindi è il trash death melodico, sì, quella roba là. Quella cosa l'ho detta bene? Sì, sì. L'ho detta bene, perfetto, sono contento, posso anche andarmene. Ciao ragazzi. Ciao Dani, è stato un piacere. Poi Siamo qui a presentarvi il nostro primo album che è Twilight of Darkness, uscito a dicembre 2009 per la Bunker Production, e parlarvi di noi, dei nostri progetti, di cosa parlano le nostre canzoni. Benissimo. Dei vostri problemi, dei dubbi, dei... ma anche qui quelli, sì. Beh, allora, intanto continuiamo il nostro proseguio della nostra trasmissione radiofonica. Andiamo avanti, io mi sono accorto che ultimamente mi sono trovato spesso... E questo è Ruggero. Ruggeri. Ruggero. Di fronte? Di fronte a un... O se andare a farmi un caffè o se bere un tè. Ecco, mi trovo spaesato, mi trovo messo abbastanza male perché sono seduto sulla punta della sedia e mi fa male un po' la chiappa sinistra, insomma, ecco. Comunque anche stasera in diretta su X Factor io... notte, ma che non è notte perché abbiamo spento solamente le luci della radio. Abbiamo qui questa sera, aspetta che non vedo niente, ditemi come vi chiamate perché non ho luce per poter vedere come vi chiamate. Starlight Extension. Starlight Extension, ma non sono Extension perché, scusa, non ho capito molto bene. Extension. Extension, che ha detto lui? Extension, extension. Quello che ho detto io. Starlight Extension. Non riesco a vederti molto bene. Accendiamo la luce, viva. Oh, finalmente, perché non capivo veramente assolutamente niente, ma niente di tutto ciò. Ma ascolta, io avrei una domanda importantissima da fare a Stefano e a Pava e al nostro amico Martino, che sono venuti qui a trovarci e volevamo sapere prima di tutto noi, ma soprattutto i radioascoltatori, che tipo di infanzia avete avuto. Beh, una domanda che comunque potrete benissimo. Tu che hai la voce quella più squillante, facci capire. Squillaci. Beh, io parlo per gli altri. Posso dirvi che il mio amico Drago ha avuto un'infanzia molto difficile. Infatti ha iniziato a suonare heavy metal proprio per questo istante. Avrei un paio di aneddoti da raccontare, ma raccontaceli brevemente, raccontaceli, siamo ansiosi di sentirli. Sì, ma non screditare le persone. No, screditare, sputtana. Aneddoti reali, no, sputtana pure, sputtana, vai. Apriti a noi, non troppo però. Apriti, ma non troppo. Martino, che insomma da buon metallaro non si è lasciato mettere le mani addosso, insomma gli è saltato su e cazzo l'ha fatto scappare via come un heavy metal, gli è saltato in groppa e gli ha dato una mano a affrontare un pericolo della sua giovinezza. E diciamo che si vede perché c'è anche il cervello, il leader del gruppo è quello che che mette in chiaro tante cose, quindi già all'epoca aveva le idee molto chiare. Aveva i Manowar, giremene una anche a me. A ruota sempre, erano i loro protettori, il suo protettore, sì, insomma, così. Beh, direi molto bene, questa è una storiella che quasi quasi mi ricorda la favola di Adamo ed Eva, quasi. La fava di Adamo. Ma io avevo anche un'altra domanda molto importante e interessante, ma perché siete nati? Come gruppo, cioè nel senso, come gruppo intendevo. Come in effetti, sì, era curioso, cioè, anche abbiamo l'altro. Discusso prima. Alla fine può parlare sempre Fava, sì, perché lui, sia, diciamo, di essere la persona più adatta, il fondatore, membro. Vai. Quello più alto, quindi sì, dai, tira fuori la favela, dai. Ne abbiamo discusso in macchina prima di venire qua, appunto, un'ipotetica domanda come questa, e abbiamo messo due ipotesi, cioè quella vera e quella ufficiale. Sentiamo prima, scusa, che la differenza è tra quella vera e quella ufficiale. Quella vera è quella vera. Ah, quella vera è quella ufficiale, invece quella ufficiale è quella che raccontiamo in radio. Ah, ok, perfetto, vai con quella ufficiale, direi io. Ufficializza, censura. Beh, veniamo tutti da esperienze con gruppi di vario genere, chi viene dal heavy metal classico e dal chi trash viene dal... Posso farti una domanda? Hai mai pensato di cantare con Ivan Canto, che hai la voce... È vero? No, perché la voce... ma mi identifico di più con i Type Negative, secondo me... Non so chi siano, ma non importa, scusate, sono un po' ignorante in generale, diciamo, ecco. Diciamo, quindi è per questo. Niente, sentivamo il bisogno dentro di noi di sfogare i vostri istinti animaleschi. Anch'io prima sentivo un bisogno dentro di me. Comunque, vabbè. Vabbè, comunque, ragazzi, vi siete formati. Siamo quindi... formati, abbiamo reclutato. Posso dire che ero uno dei membri fondatori. Ho soldato Martino come chitarrista. Assoldato. Assoldato. E l'hai anche rassodato, direi. No, come puoi vedere, non è molto rassodato, Martino. Va bene, vediamo i glutei poi. Vabbè, comunque, allora facciamo una cosa, ragazzi. No. Vi interrompo un attimo. Andiamo a fare prima la spesa, perché ho bisogno un attimo di sciacquare un attimo la gola. Andiamo un attimo a fare spesa, ci prendiamo un po' da bere e ritorniamo con i nostri tre amici qui tra 5 minuti, così potremo parlare tutti quanti insieme appunto di tutte le storielle che volete raccontare. Nel frattempo Stefano farà un messaggio idratante. Il messaggio idratante? Un messaggio. Cosa invii dell'acqua? Un messaggio idratante. Ok, vai. Basta, e grazie, poi sentiremo la versione vera della formazione del gruppo. A dopo. A dopo, a fra poco. Respected, boy, I know you heard about me. I don't know what you've heard about me.